E sono 30 minuti primi dopo le ore 23. Eccoci qua con una diretta veramente, veramente improvvisata. Sono sceso giù in cantina giusto per mettere su qualche disco e per ricordare appunto il grandissimo Ugo Tognazzi, uno dei più grandi attori mondiali e, devo essere sincero, il mio attore preferito. Insomma, Ugo c'è sempre nei miei momenti magari di sconforto, come mi è capitato da settembre fino a gennaio, oppure nei miei momenti allegri. Insomma, un suo DVD c'è sempre, una sua pellicola scaricata dal web oppure vista su YouTube è sempre presente. Dicevo, puntata un pochino anomale per quanto concerne Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Io sono Andrea. Solitamente abbiamo un'altra base, però visto che si parla di Ugo Tognazzi, anzi ricordiamo ancora una volta questa bella giornata, perché oggi Ugo compie gli anni, anche se non è più tra noi, però insomma noi lo festeggiamo ugualmente, gli auguriamo ogni bene e anche insomma un bel compleanno, ci guarda da lassù insomma e spero gradirà questo speciale fatto proprio in modo improvvisato qua in diretta nella mia cantina. Se volete essere anche voi grandi protagonisti potete farlo, lasciarci magari un messaggio direttamente su Spreaker o anche su Twitter. Che cosa faremo questa sera? Niente, ascolteremo praticamente alcune colonne sonore di film di Tognazzi che ho reperito casualmente dal web oppure direttamente dai CD che avevo a casa. Ho fatto un'improvvisata, quindi scusate per eventuali errori, ma qua insomma non siamo su Radio DJ, siamo su Spreaker, ci stiamo divertendo principalmente e nel nostro divertimento insomma ascoltiamo principalmente musica, come la amo definire io, musica che difficilmente magari ascoltate nei network italiani. Sono in pratica le colonne sonore più belle di alcuni film di Ugo Tognazzi. Ho fatto una bella selezione questa sera, quindi non mi rimane altro che augurarvi la buona serata, la buona nottata e anche il buon pomeriggio per gli amici e per le amiche che ascolteranno la replica. Partiamo immediatamente con la prima canzone, che non è una colonna sonora, bensì è un vinile che Ugo Tognazzi ha proprio cantato con la sua viva voce. Tra l'altro, oltre ad essere un grande attore, Tognazzi è stato un grande artista, cuoco, insomma veramente un grande artista che ha reso grande la nostra nazione in tutto il mondo. E in sottofondo abbiamo la colonna sonora di Amici miei, non l'ho ricordato perché mi sembra talmente ovvio che ho detto beh, non mi sembra neanche il caso di ricordarlo, perché insomma una colonna sonora talmente famosa che insomma penso che la conoscono tutti. Partiamo subito con la prima canzone, che è di Ugo Tognazzi, poi inizieremo proprio a parlare del grande attore cremonese. Ascoltiamoci Risotto amaro, Ugo Tognazzi. Stasera non vedo nessuno, resterò da solo a casa, ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa. Una serata da ricordare, da stare a tu per tu con il ragazzo che non sono più, in compagnia di qualche fotografia, incerto tra il rimpianto e l'ironia. Una serata da non uscire, da dedicare a me, cercando una risposta che non c'è. Ai miei perché di nuovo risponderò, in fondo perché no. I sapori del tuo passato e quanti amori questo lungo può ridere. Cose che ho preso, cose che ho dato e tanti errori che di corsa notti chiusi rifarei. Buonasera deve assaporare, ma stando molto attenti, dosando saggiamente gli ingredienti. Risotto amaro è il piatto che mi preparo per una sera di un replay. Se viene male non mi sparo, risotto amaro, spero che riesca, ok. Passato e quanti amori in questo lungo mio replay, cose che ho preso, cose che ho dato e tanti errori che di corsa d'occhi chiusi rifarei. Una serata da assaporare, ma stando bene attenti, dosando saggiamente gli ingredienti. Risotto amaro è il piatto che mi preparo per una sera di un replay. Se viene male non mi sparo, risotto amaro, spero che riesca, spero che riesca, spero che riesca. Era la colonna sonora di un vinile molto bello, cantato da Ugo Tognazzi, Risotto Amaro. Siete sempre qua su Star Trek, questa sera un viaggio particolarmente differente, solitamente ascoltiamo delle canzoni così, no? Selezionate da me, questa sera invece oltre alle canzoni parliamo proprio, spendiamo due parole dedicate a Ugo Tognazzi, l'avete capito tutti. Facciamo quindi allora una biografia di questo grande attore che è nato a Cremona il 23 marzo del 1922. Ho reperito l'informazione direttamente dal suo sito www.ugotognazzi.com. Dicevo, figlio di un assicuratore, Ugo è presto costretto ad abbandonare gli studi perché ha dovuto seguire il padre in giro per l'Italia. Nel settembre del 1943 praticamente ritorna nella sua città Cremona e continua la sua attività artistica, organizza piccoli spettacoli di rivista nelle ore libere del lavoro che svolge all'ufficio a Masso e Fieno, ma la provincia di Cremona gli sta molto stretta e quindi decide di spostarsi a Milano per cercare fortuna. È il 1945 e partecipa appunto a un concorso per dilettanti che lo vede trionfare, pensate un po', procurandogli la prima scrittura con una compagnia di giro che ben presto lo porta a farsi notare da Wanda Osiris e viene anche scritturato proprio dalla compagnia di Wanda Osiris. Quindi inizia la sua carriera artistica principalmente con il teatro. Noi questa sera daremo più spazio al cinema perché siamo riusciti a reperire principalmente colonne sonore di alcuni suoi film, quindi purtroppo del teatro non possiedo nessuna registrazione che ci permetta appunto di ascoltare anche Ugo sotto questa veste. Ora ascoltiamo invece la colonna sonora di La Grande Abbuffata, un altro film molto bello con dei grandissimi attori. La Grande Abbuffata. Thank you. E questa invece era la grande buffata, con una sonora originale di questo capolavoro di Ferreri, che ha visto tra gli attori protagonisti appunto Ugo Tognazzi. Una cosa molto carina e molto simpatica è immaginare Tognazzi, insomma, negli anni cremonesi della sua bella Cremona, che non so, magari nelle ore lavorative lavorava per l'appunto in una, se non erro, nel salumificio delle Negroni, ecco, sì, nelle ore lavorative magari improvvisava qualche gag con i colleghi. E anche la sua infanzia, mi pare che sin da bambino, proprio in tenera età, iniziava già a recitare nel teatro cremonese. Quindi veramente, veramente un attore che si è fatto anche lui una gavetta notevole, veramente una gavetta molto molto intensa, diciamo così, e non facile. Ora parliamo sempre di Tognazzi come attore, questa volta teatrale, che appunto è stato scritturato per la compagnia Erika Sandri, qua stiamo parlando sempre intorno al 1945, che lo porta in giro per l'Italia del nord e del sud con la rivista. Inizia insomma a muovere i primi passi nel teatro con la rivista, con lo spettacolo Viva le donne. È solo l'inizio di una intensissima stagione che sin dal 1956 lo vede impegnato in un crescendo di successi nella stagione 1946-47, dopo essere stato in scena con Bocca baciata. Ed è accanto anche a un altro grande attore teatrale, Macario, in Cento di queste donne. Nel 1948-49 è ancora con Macario in Febbre azzurra e poi passa con Masiero nello spettacolo Paradiso per tutti. Nel 1949-50 è tra i protagonisti di Castellinaria di Amendola. E nel 1950-51 invece interpreta quel treno che si chiama Desiderio. Mentre le scene salutano con successo i suoi numerosi impegni, il cinema inizia ad accorgersi di lui. È infatti nel 1950 la sua prima esperienza sul set cinematografico di I cadetti di Guasconia di Mario Mattioli. Quindi questo film è il vero e proprio esordio di Ugo Tognazzi come attore cinematografico, non solo teatrale ma anche cinematografico. E ne seguono un decennio, vede la partecipazione per l'appunto di Ugo Tognazzi in 30 leggerissime commedie per lo schermo e per il palcoscenico. E poi lo ricorderete tutti in coppia anche agli esordi con Walter Chiari, se non erro, e di seguito con Raimondo Vianello, che è stata la sua spalla mitica per tanti anni.